Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Buonasera a tutti carissimi amici di Runtime Radio, bentornati all'appuntamento settimanale di Quando eravamo futuro. Con me ovviamente Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, buonasera. Grande promotore e sostenitore del progetto, Roberto Tomaiuolo. Buonasera a tutti, grazie Simone. Prego, prego. E ovviamente non potrebbe mancare in un trittico così formidabile Davide Gatti. Buonasera, un saluto atomico a tutti. Bravo. Un saluto atomico. Intanto permettetemi di ringraziare tutti gli ascoltatori che durante queste settimane ci hanno dato feedback e stanno comunque apprezzando molto il lavoro di questo programma che stiamo facendo. Poi magari nella parte della posta ci torniamo un po' su questa cosa, perché chiaramente abbiamo anche ricevuto diversi messaggi, ma soprattutto permettetemi anche, insomma, di applaudire ai risultati in costante crescita d'ascolto di questa trasmissione, sulla quale abbiamo creduto, volevamo farla da un po' di tempo, abbiamo solo aspettato che si creasse ovviamente la giusta amalgama, giusto Carlo? Dovevamo trovare le persone giuste. Esatto, e soprattutto avessero anche il tempo di fare questa trasmissione, ecco. Eh sì, perché comunque sembra impegnarsi un po', sembra una sciocchezza, ma una volta a settimana live la sera, insomma, potrebbe succedere anche che magari una volta non ci riusciamo, perché è comunque un grande impegno. E infatti Roberto Tomaiuolo l'altra settimana non c'era, ma era giustificato perché era in transito nel buffer del teletrasporto di qualche astronave internazionale. Esatto. Beh, è verissimo, pensate che dovevo schivare, non ho volato come avete detto, sono andato in macchina proprio per schivare le varie frontiere, ma non dico di più per evitare, vabbè, ripercussioni, dici? Di autoincriminarmi. Esatto. Mi appello al quinto emendamento, che non esiste tra l'altro, però va bene. Esatto. Va bene, noi utilizziamo in leggi questo pianeta, no, in questo pianeta non esiste, ma quello dove è lui sì. Esatto, lui è in Belgium 3, quindi insomma non si sa bene. Allora, come abbiamo detto nelle puntate precedenti e in generale, questo è un programma che attraverserà la storia e la cultura e la società degli anni 70 e 80, quindi le parti divertenti, carine, ma anche comunque le parti che riguardano anche aspetti più storicamente rilevanti, che hanno comunque segnato in maniera significativa quel periodo lì e ovviamente anche la nostra generazione. In questo caso Roberto si è proposto di fare una puntata come quelle che, insomma, diciamo, lo caratterizzeranno, quelle un po' più, possiamo definirle, impegnate. E per introdurre il tema di questa puntata io vi faccio ascoltare, ecco appunto, insomma, vi faccio ascoltare il fatto che sono un cialtrone, però alla fine che ci frega, no? Giusto. Beh, chiaramente gli amanti dei videogiochi, in particolare di questo videogioco, avranno sicuramente riconosciuto l'iconica sigla, anzi l'iconico tema principale musicale di Fallout 3, che ovviamente è uno dei videogiochi che io ho amato di più in assoluto in tutta la mia storia e probabilmente, anzi quasi sicuramente, il gioco al quale ho giocato di più in assoluto in termini di ore di gioco, insomma. Quindi essendo Fallout ovviamente in tema con quello di cui andremo a parlare quest'oggi. Io lascio la parola a Roberto sulle note di questa meravigliosa musica, un po' tetra e un po' devastante anche. Grazie Simone. Allora, come abbiamo annunciato sui social, questa sera parleremo di una tragedia, del disastro avvenuto a Chernobyl. Analizzeremo alcune cose in particolare e poi vedremo di allargare un po' il discorso in generale. Quindi senz'altro è un argomento un po' impegnato e anche per alcune cose un po' triste, però abbiamo ritenuto interessante e anche importante parlarne questa sera. Per cui parliamo di Chernobyl. La costruzione della centrale di Chernobyl cominciò nel 1970 e insieme alla costruzione della centrale ebbe inizio la costruzione della città di Pripyat, perché al tempo intorno alle località in cui si facevano queste centrali nucleari venivano anche costruite delle cosiddette Atomgrad, città atomiche, che avrebbero dovuto accogliere le maestranze e le famiglie delle maestranze attorno alla centrale, oltre ai vari servizi che si sarebbero creati. Questa città, Pripyat, distava circa 15 km dal sito di Chernobyl. Tra l'altro questa era anche una cosa abbastanza comune, creare queste città attorno ai siti importanti. È successo lo stesso per la ricerca spaziale, ad esempio, e non solo. Questa centrale fu equipaggiata con un reattore di tipo RBMK. Questa è una cosa importante, come vedremo. Era un reattore relativamente economico, però era potenzialmente pericoloso quando funzionava a bassa potenza. Ora descriverò in modo molto semplificato come funziona, giusto per avere un'idea poi di alcune cose che andremo a raccontare. Quindi questo reattore RBMK era un reattore moderato a grafite e refrigerato con acqua bollente, con carburante composto da barre di uranio arricchito. Ora vediamo di cosa stiamo parlando. Il ruolo del refrigerante è abbastanza intuitivo, serve a raffreddare il sistema. Il cosiddetto moderatore, invece, serve a rallentare i neutroni, che sono fondamentali nelle reazioni atomiche che si svolgono e di cui, state tranquilli, non parleremo questa sera. Quindi questo moderatore serve a regolare la potenza del reattore. Teniamo presente che per funzionare il reattore deve avere i neutroni rallentati, o come si dice, moderati. Se sono troppo veloci la reazione non avviene, non si propaga. Nei reattori più costosi, quelli occidentali, il rallentamento avveniva attraverso l'acqua stessa. Questo è una cosa importante da sottolineare. Il motivo è presto detto. Nei reattori occidentali, se per qualche motivo viene a mancare l'acqua, il reattore si spegne, perché abbiamo visto che è l'acqua che rallenta i neutroni, abbiamo detto che i neutroni devono essere rallentati. Ma nel modello sovietico, che per inciso, sebbene migliorato, esiste ancora in molte centrali russe a questo punto, e non solo, può avvenire il contrario. Quindi se viene a mancare l'acqua, la potenza può aumentare fino ad arrivare alla fusione del nocciolo. E ricordiamoci di questo dettaglio, che sarà importante come vedremo fra poco. Va anche detto che nel 1982 Chernobyl subirà un primo grave incidente, che però non fu reso immediatamente pubblico, ed avvenne la parziale fusione del nocciolo del reattore numero 1. La centrale verrà riparata e tornerà a funzionare pochi mesi dopo. Solo 3 anni dopo verrà reso pubblico questo incidente che era avvenuto nella centrale. E veniamo ai giorni drammatici. Cominciamo con il 25 aprile 1985. Nella centrale fu programmato un test. Il test serviva a verificare se dopo lo spegnimento del reattore e quindi la successiva mancanza di energia elettrica, perché la centrale stessa prende la sua energia elettrica dal reattore, la semplice inerzia delle turbine, che quindi non erano più alimentate dal reattore, avrebbe generato abbastanza elettricità da sostenere l'entrata in funzione dei generatori diesel di emergenza, così da garantire il funzionamento dei sistemi di sicurezza e di raffreddamento. Quindi il test era: se per qualche motivo noi spegniamo il reattore o se per qualsiasi motivo viene a mancare l'elettricità ai sistemi di raffreddamento e di emergenza, che succede? L'entrata dei motori diesel di solito richiede un minuto, non so se l'avete mai visti, i generatori sono dei grossi motori che vengono appunto generati diesel, ma soprattutto quelli vecchi avevano bisogno di tempo per entrare in funzione. Però le pale delle turbine avrebbero continuato a girare, non si sarebbero spente subito, quindi ci sarebbe stato un po' di energia elettrica comunque generata dal reattore mentre si spegneva. Allora volevano verificare se questa sarebbe stata sufficiente a sostenere i sistemi di emergenza fino all'ingresso del generatore. E quindi alle ore 1 di notte del 25 aprile 85 comincia questo test. Il reattore viene abbassato al 50% della potenza all'una di pomeriggio. Alle 2 il reattore avrebbe dovuto raggiungere il 30%, quindi prima 100, poi 50, adesso 30. Però questo non avvenne perché le autorità ucraine, e l'Ucraina è assai vicina alla centrale di Chernobyl, infatti è la nazione che ha subito maggiormente i danni poi dall'incidente, le autorità ucraine chiederanno di non diminuire ulteriormente la potenza perché c'è un'altra centrale che stava malfunzionando e non avevano abbastanza potenza nella rete, per cui il test rimane per ora al 50% fino a nuovo ordine, diciamo così. Questo è un semplice ritardo, però questo ritardo comincerà a causare una serie di operazioni di problemi a catena, il primo dei quali è che le squadre di turno, che erano quelle migliori, più esperte, che avrebbero dovuto eseguire il test, non saranno più quelle, perché i turni continueranno, il test viene traslato, quindi quelle che poi si dovranno trovare ad effettuare il test non erano quelle che originariamente avrebbero dovuto farlo, che magari si erano preparate o erano le più esperte. Alle 11 di sera finalmente hanno l'ok delle autorità ucraine, quindi può riprendere la riduzione dell'energia, che come abbiamo visto era al 50%. Dopo la mezzanotte si inseriscono le barre di moderazione, quelle di cui abbiamo parlato prima, ma erroneamente ciò avviene troppo, cioè queste barre che vengono calate all'interno del nocciolo, diciamo, vengono calate troppo e questo genera che un crollo della potenza del reattore troppo repentino e troppo forte. Vi ricordo che abbiamo detto prima che questo tipo di reattore può essere pericoloso quando va a bassa potenza. E qui alcuni suggeriranno, resosi conto di questo repentino e troppo forte calo di potenza, di abortire il test. Però il direttore imporrà invece di proseguirlo. Qui faccio solo un piccolo inciso, chiaramente in sistemi come quello sovietico dovete pensare che non è facile abortire un test o qualcosa che era scritto o fatto, soprattutto per un motivo di sicurezza. Alle ore 1:19 vengono esclusi i sistemi di spegnimento automatico per timore che possano interrompere lo svolgimento del test e vengono rimosse a questo punto, sollevate tutte le barre di moderazione. Ci si sta avvicinando al punto di non ritorno, ma le persone all'interno della sala di controllo non lo sanno e non se ne accorgono, perché per ora tutti i parametri sembrano essere nella norma, ma così non è. Alle ore 1:23, all'insaputa degli operatori, il sistema comincia a cedere, ma gli operatori, non sapendo appunto, non rendendosi conto di quanto stava accadendo, cominciano il vero e proprio esperimento e staccano completamente a questo punto l'alimentazione alle pompe dell'acqua, quello che volevamo vedere prima, per vedere se il sistema avrebbe funzionato lo stesso. Dopo 40 secondi viene attivato il sistema di spegnimento di emergenza. Non è chiaro, non è mai stato chiarito se questo sistema di spegnimento di emergenza sia stato attivato perché finalmente si erano resi conto di ciò che stava avvenendo e quindi per cercare di impedire danni ulteriori, oppure hanno usato il sistema di spegnimento di emergenza semplicemente per spegnere il reattore, perché a quel punto avrebbe dovuto essere spento. Questo non si è mai riuscito a capire. Però purtroppo la procedura di spegnimento di emergenza non solo fallisce, ma addirittura contribuisce ad aumentare le reazioni. perché nel frattempo erano avvenute tutta una serie di cose di cui loro non si erano resi conto. La temperatura dell'acqua comincerà a salire vertiginosamente. Alle ore 1:23:44 di notte ci sarà la prima esplosione. Il reattore raggiungerà una potenza enorme, molte volte più di quella che avrebbe dovuto sopportare. Il combustibile nucleare fonde, il vapore fa esplodere tutte le condutture. Dopo circa un secondo avverrà una seconda esplosione. Il coperchio, pesante 1100 tonnellate, è distrutto e viene totalmente espulso e comincia il rilascio di radiazioni. La grafite si incendia. Non ho detto, e questo è importante, che siamo arrivati al 26 aprile, che appunto è il giorno dell'incidente, durante le prime ore della notte. Quindi abbiamo detto che la grafite si è incendiata e moltissimo materiale radioattivo viene disperso. Parliamo di chilometri in altezza e centinaia e centinaia di chilometri in distanza, perché il vento comincia a trasportare questo materiale radioattivo. All'1:30 arrivano i primi pompieri, che sono totalmente ignari di cosa sta accadendo. Trovano della grafite altamente radioattiva che sta bruciando. Ritengono che sia un normale incendio, quindi la toccano, la spengono e fanno quello che fa un pompiere normale. In poche ore riusciranno a domare tutti gli incendi visibili, ma cominceranno immediatamente a sentirsi male. Questi eroici uomini non potevano saperlo, ma hanno assorbito in pochi minuti una dose di radiazione che è moltissime volte superiore a quella letale, decine di volte superiore a quella letale. Hanno toccato praticamente direttamente il materiale estremamente radioattivo. Alle ore 7 gli incendi erano quindi tutti domati, ma continuava a uscire sinistramente fumo dal reattore numero 4, e questo non era ancora stato interpretato per quello che era, ovvero che ormai c'era stata la fusione e quello era una pericolosissima fuga enorme di radioattività. Quindi questi pompieri hanno certo ridotto i danni, ma con sacrifici immensi, praticamente sono poco dopo morti tutti. Pensate che alle ore 8, quindi poco dopo, riprende il normale turno dei lavoratori della centrale, addirittura non vennero spenti alcuni degli altri reattori e vennero fatti arrivare i 286 operai che stavano procedendo a delle costruzioni edili per altri reattori che dovevano essere fatti a fianco al reattore numero 4, che è quello che è tristemente esploso. Quindi tutto come se non fosse successo nulla, dopo l'esplosione del reattore e questo fumo sinistro che usciva dallo stesso. Alle ore 20 si assume di solito che molti abitanti della città di Pripyat, quindi al calar del sole, si siano trovati sul ponte della ferrovia, da dove si poteva vedere chiaramente la centrale, per ammirare lo spettacolo che tale era delle fiamme bianche e blu che venivano dalla centrale. Questo è un classico esempio di grafite che brucia. Non potevano sapere che anche loro in pochi minuti hanno assorbito dosi letali di radiazioni e nessuno di loro sopravviverà. Questo anche ci ha dato l'idea per il nome di questa puntata. Arriviamo al 27 aprile. Cominciano ad arrivare le carovane di autobus. Si comincia a pensare che forse dopo ormai oltre 24 ore dal terribile incidente nucleare sarà il caso di evacuare la città che si trova a pochi chilometri dalla centrale. Solo ora vengono spenti gli altri due reattori che erano ancora in funzione nella centrale. La mattina del 27 aprile finalmente si ha il coraggio di ammettere ciò che è avvenuto, ovvero un disastro terribile in cui è avvenuta la fusione del nocciolo e c'è una grandissima dispersione di materiale radioattivo. Alle 14 del giorno dopo, quindi 36 ore dopo il disastro, finalmente comincia l'evacuazione della città. Ai residenti vengono date 2 ore per raccogliere i propri beni e 43.000 persone evacueranno la città su oltre 1.200 autobus. Non ritorneranno mai più. Arriviamo al giorno dopo, il 28 aprile. Alcuni dipendenti di una centrale nucleare in Svezia, il mattino dopo, innescano il sistema di emergenza della centrale, il sistema di allarme della centrale, perché risultano avere le suole delle scarpe radioattive. ovviamente in primis gli svedesi hanno pensato a una fuga nella loro centrale, però dopo essere riusciti a escludere questa eventualità si rendono conto che la radioattività doveva necessariamente provenire dall'esterno, quindi cominciarono a sospettare un incidente grave, incidente nucleare all'esterno, fino alla sera alle ore 11, dove un laboratorio di ricerca nucleare danese denuncia il grave incidente di Chernobyl, riuscendo a fare alcune misurazioni, e riescono anche tranquillamente a comprendere che c'è stata la fusione del nocciolo e una conseguente fuoriuscita catastrofica di radioattività. Il giorno ancora dopo, siamo a 3 giorni dopo il disastro, la notizia viene finalmente data nel telegiornale sovietico come sesta notizia. Loro si limitano a dire che sono morte 2 persone, che c'è stata un'esplosione, una parte del reattore è distrutta, la città si è evacuata, ma c'è solamente alcune persone in ospedale, quindi minimizzano in maniera enorme quanto stava avvenendo. Il giorno dopo, nonostante le proteste dell'Occidente che chiedeva informazioni, Mosca insiste e ripete che ci sono 2 vittime e meno di 200 persone in ospedale. Il giorno dopo ancora, il 1° maggio, come ovviamente è facile immaginare una data importante soprattutto nella ex Unione Sovietica, ebbene, le parate del 1° maggio non vengono annullate né a Kiev né a Minsk, che sono vicine a dove è avvenuto l'incidente ed erano assolutamente coinvolte dalla nube radioattiva, per non ingenerare panico. Però i burocrati di Stato non parteciperanno a queste manifestazioni e non faranno partecipare i loro parenti, come sempre. Il giorno dopo, a Chernobyl si nota come 2 piscine di raffreddamento erano ancora colme di acqua radioattiva e avrebbero potuto innescare una terza esplosione. Questa eventuale terza esplosione sarebbe stata, se possibile, ancora molte volte più grave dell'altra. Avrebbe potuto ingenerare delle conseguenze cataclismiche sull'intero globo. 3 ingegneri volontari che voglio nominare, Alexei Ananienko, Valery Bespalov e Boris Baranov, si immergeranno per aprire le valvole e svuotarle. Ci riusciranno, ma moriranno pochi giorni dopo per le radiazioni e sicuramente sapevano che facendo questo sarebbero morti, quindi è stato un sacrificio volontario davvero eroico. Voglio fare un ultimo bilancio di tutto quanto è avvenuto, quindi parliamo di oltre 400.000 evacuati, aree enormi inabitabili, aree enormi vuol dire aree della grandezza dell'Olanda per capirci, per decine se non centinaia di anni, perché il tempo di decadimento di alcuni degli elementi radioattivi di cui parliamo è davvero migliaia di anni addirittura. Ci sono stati, si calcola perché non si sa di preciso, oltre 10.000 morti e 400.000 persone affette da tumori e radiazioni. In totale oltre 3 milioni di persone sono state coinvolte in quello che è stato sicuramente l'incidente nucleare che ha avuto le conseguenze più gravi di tutte e, come abbiamo visto, insorto sicuramente per sottovalutazione e gestito male durante la sua durante il suo avvenimento e malissimo dopo che è avvenuto. E con questa triste introduzione lascio di nuovo la parola a Simone. Allora io faccio partire un piccolo brano bravo, poi dopo ce lo introduce un attimo Davide, dopo quando lo sfumiamo, tanto lo ascoltiamo un attimo, un minuto e mezzo, giusto per riprendere un attimo fiato. Poi io avrei 2 o 3 cose da dire così di contorno, diciamo, relativamente a questa cosa. Poi prima di continuare con le altre informazioni che ci sono, comunque informazioni, ed è anche importante poi alla fine anche ricordarla questa cosa, magari andiamo anche a quelli che sono i ricordi e le percezioni personali di quello che è stato il vissuto, la situazione, del contesto nel momento. Però vabbè, mo ci ascoltiamo un attimo, un secondo, un po' di musica e torniamo subito. We'll be right back. Bene, rientriamo. Allora, Davide, di che si tratta? Vabbè, io credo, così a naso, che quasi tutti abbiano sentito questo brano almeno una volta, che è un brano del 1975, quindi antecedente a questo disastro e ad altri disastri, ma è un brano dei Kraftwerk, uno dei loro primi album fatto da loro proprio. E in realtà parla di radioattività, ma non nel senso guardando ai disastri nucleari eccetera, ma poi è diventato successivamente, anche sempre da parte loro, aggiungendo anche i nomi di tutte le varie centrali che hanno subito incidenti, è diventato il brano simbolo praticamente di questi disastri nucleari. Difatti successivamente venne introdotto nelle versioni poi diciamo rimasterizzate nel 2012, diciamo ne usciva una ogni volta che c'era un incidente, no? Quindi uscito Chernobyl l'hanno fatto, hanno aggiunto Chernobyl, e quando è uscito Fukushima hanno fatto anche la versione con dentro anche Fukushima. Ed è praticamente un brano che ormai è diventato cult, simbolo di questo tipo di argomenti di cui stiamo parlando stasera, e quindi quando si sente questo brano la gente si immedesima in questo tipo di problemi, anche se non è nato magari proprio con quello scopo. Difatti dicono Discovered by Madame Curie, che non, insomma, si parla di radioattività in una maniera differente, anche se magari il testo non è che sia molto particolare di questa canzone, però penso che la loro intenzione fosse quella di parlare di radioattività in generale, ma non di disastri. Ma diciamo che poi è andata così, con, diciamo, cavalcando l'onda di questi disastri. Allora, alcune cose, alcune considerazioni. Io nel 1987 ero in Nuova Zelanda e la percezione della nube radioattiva fu molto sentita in Nuova Zelanda. Loro sostengono che in una parte di questa grossa nube, che poi in realtà ha fatto il giro di mezzo globo fondamentalmente, sia arrivata fino a Nuova Zelanda, e nella parte sud della Nuova Zelanda, in coincidenza, nei mesi e negli anni successivi sono state moltissimi morti di tumore in più rispetto a quella che era la media nazionale, e questa è una cosa che allora, anche se ero un ragazzino, fu una cosa che mi colpì molto. E devo dire la verità, che tutte le persone che io ho conosciuto, tranne ovviamente quelle più giovani, sono morte di tumore, e questa è una cosa che mi fece sempre molto riflettere su questa situazione. Che poi noi, al di là di come uno la pensa sul nucleare, no? Poi adesso facciamo anche un giro in chat, perché ho visto che poi alla fine comunque sono persone che stanno scrivendo e noi non l'abbiamo neanche salutati. Mi ha sempre fatto riflettere. In più mi fa sempre riflettere questa cosa di Pripyat, che oggi è chiaramente una città fantasma, sulla quale poi sono nate centinaia di leggende relative anche alla città stessa. Le prime immagini aeree del palazzo con quella famosa colata rossa, no? Dove si presuppone che sia sangue. Poi ci sono tutta una serie di come posso dire, di leggende metropolitane legate anche un po' al metafisico, insomma, le cose un po' strane, che ovviamente non hanno niente a che fare con la realtà. Però una cosa interessante è che molto prima che la cosa diventasse di moda, ossia negli ultimi anni, dove diversi youtuber comunque hanno fatto i vari tour intorno alla zona, e questa cosa è quella degli stalker che accompagnavano in maniera assolutamente illegale e assolutamente sconsiderata comunque i turisti più curiosi, più morbosi, all'interno della zona vietata, come si chiama, zona off limits, diciamo così, off limits. È una cosa che dura da diversi anni. E questa cosa anche mi ha sempre un po' fatto molto riflettere sul fatto che alla fine c'è un atteggiamento da una parte di sensibilizzazione, da una parte molto particolare, dall'altra c'è sempre questa morbosità, questa idiozia anche nei confronti di una catastrofe che, come dice giustamente Roberto, non è solo una catastrofe sovietica, russa, ucraina, ma è una catastrofe mondiale, perché comunque poi alla fine la quantità di persone che sono morte e soprattutto le conseguenze a livello europeo, internazionale, ci sono state nella salute pubblica, comunque voglio dire, sono state non rilevanti, molto di più. Queste erano due cose che volevo dire, però ci sono veramente delle immagini che girano da moltissimo tempo della città fantasma, che sono veramente inquietanti, perché è la percezione di un posto che è stato abbandonato in un istante, cioè proprio dove è tutto congelato esattamente così come era allora, quindi con i libri ancora sui banchi di scuola, le cose sui tavoli e ovviamente tutte quelle persone che hanno potuto produrre questo materiale a loro rischio e pericolo, chiaramente non so poi se ne hanno pagato le conseguenze, però insomma hanno regalato, diciamo così, un'ulteriore parte di storia, insomma, a questa storia che dura oramai da tantissimi decenni, insomma. Ecco, volevo dire questo. E volevo, non so se Roberto c'ha da aggiungere qualcos'altro e sentire anche gli altri, insomma, relativamente. Guarda, solo velocemente, due cose velocissime. Una che ho letto in chat, ha ragione Ruggio 81, non è certo che l'evento del Ponte della Morte, cosiddetto, non è certo, alcuni dicono che non sia falso, alcuni dicono che sia vero solo in parte. Non lo sappiamo, questa è la verità, che non lo sappiamo, però è plausibile, quindi secondo me va bene raccontarlo, perché descrive bene comunque la situazione. Diciamo che storicamente non è determinante se sia vero o non sia vero, ci piace anche pensare che possa essere stato vero, cioè nel senso che alla fine non cambia la sostanza, poi fondamentalmente è quello che dicevi tu. A mio avviso è perché la radioattività è un killer invisibile, e questo che è terribile, letale e invisibile, quindi la città è ancora lì, mancano solo le persone. Questo tra l'altro è un argomento che nella narrativa fantastica e drammatica si ripresenta assai spesso, ed è questo che fa terrore, più che magari una bomba che distrugge completamente la città, è appunto qualcosa che svuota totalmente la città dalla vita per centinaia di anni. Solo questo. Sì, allora, intanto salutiamo tutti quelli che sono in chat, quindi Girasole, Lobby Frontali, appunto, giustamente, che ci ha anche linkato, come diceva Roberto, Ruggio, che ci è venuto a trovare. Poi abbiamo anche, ho visto delle persone nuove, aspettate, un secondo soltanto, perché così alla fine, niente, vabbè, adesso non trovo più, vabbè. Sì. Comunque, vabbè, c'è Pier G, chiaramente, poi ho visto una persona nuova, però non la trovo adesso. Vai, Carlo. Ma una cosa da dire che non avevo detto è anche come mai stiamo parlando di Chernobyl, perché in realtà oggi è il 22 di aprile, quindi manca poco alla ricorrenza. E quest'anno, che è il 2021, cosa sono, 35 anni? Che, no, 36? No, 35. Sì, quest'anno? 85. Sì, 85. 85, sì. Quindi, no, beh, allora 36 sono. 35. Vabbè, comunque. Sì, è vero, sì, 36. 36 anni. Comunque, vabbè, cioè, tra poco è la ricorrenza, quindi siamo vicini, diciamo, ai giorni in cui avvenne tutto questo. Io all'epoca avevo 15 anni, quindi me la ricordo abbastanza bene, devo dire, la questione. E quello che non abbiamo anche raccontato era il contesto in cui avveniva tutto ciò, nel senso, che anni erano quegli anni, l'85. Un po' è saltato fuori spesso come veniva vista l'Unione Sovietica in quel periodo dall'opinione pubblica in generale, ma soprattutto il fatto che noi stavamo vivendo in quel periodo lì un periodo di contrapposizione dei due blocchi, quello occidentale e quello orientale, e una cosa che non riescono a immaginarsi neanche i ragazzi che non l'hanno vissuta, i nostri figli o comunque quelli che sono venuti dopo, diciamo, la caduta del muro di Berlino, era la vita nella costante paura della, diciamo, terza guerra mondiale, esplosioni di bombe atomiche, morte nucleare. E noi eravamo giovani, quindi io non lo sapevamo, magari un po' lo temevamo, ma non è che avessi questo terrore così estremo, ma a ripensarci adesso quasi mi fa più paura adesso ripensare quello che abbiamo vissuto in quegli anni, piuttosto che la consapevolezza di averli vissuti in quegli anni lì. Noi da un giorno all'altro poteva succedere un disastro nucleare globale, citato in innumerevoli film, libri, trasmissioni televisive, raccontato in tutti i modi. Io mi ricordo tantissimo il successo che ebbe The Day After, ve lo ricordate? Ah, The Day grande, After, grande, grande, grande, il tele, quella serie TV che fu trasmessa anche da noi, è un successo mondiale, ma raccontava esattamente, sai, che da noi, la paura da noi sulla Rai fu presentata da Piero Angela, tra l'altro, ricordiamoci questa cosa. Penso di sì, sì, sì, sì, sì, sì. Mi ricordo questa comunque cosa. Raccontava la vita dopo una, cosa sarebbe successo se fossero effettivamente esplose delle bombe atomiche nelle varie città del mondo dopo una guerra nucleare. Era effettivamente la nostra paura. Tutti vi ricordate chi la mania, anche da noi meno, in America tantissimo, però anche da noi un pochino, quella di costruire bunker antiatomici. Sì, sì. Beh, l'America forse era più un'abitudine americana, piuttosto, perché comunque americana era quasi una necessità, cioè costruivi, sì, la casa e facevi anche il bunker antiatomico. Ma prima ancora di Chernobyl, proprio a livello di pensiero, sì, di, sì, guerra. Sì, io sto raccontando qual era l'atmosfera, cioè quando è avvenuto questo disastro atomico di Chernobyl, è stato un po' come se tutte le nostre paure fossero venute a galla in un nanosecondo. La paura del nucleare e di tutto quello che ci faceva paura del nucleare, sia per la questione delle bombe atomiche e della guerra, ma per tutti i pericoli collegati. A livello anche delle centrali nucleari, ricordiamo le decine anche lì di film e telefilm, uno su tutti, vabbè, la sindrome cinese, esatto, sì. Che infatti quando poi accadde Cerno, io mi ricordo tutti i telegiornali, oddio adesso la sindrome cinese, adesso il nocciolo fonde, finisce al centro della terra, boom, bam, disastro. Che in realtà sarebbe potuto succedere, perché una delle cose che successe, che ricordiamo, il sacrificio per cui hanno costruito anche la statua fuori da Chernobyl, delle centinaia e centinaia di minatori russi che scavarono sotto la centrale e morirono tutti di radiazioni, scavarono nudi sotto la centrale per il troppo caldo. Questo si vede nella serie dell'HBO, ma il racconto è... No, ma io mi ricordo le immagini del telegiornale, ragazzi. Esatto. Di questa fila di ragazzi che scavavano per 10 minuti a turno, perché così almeno li salvaguardavano. Per fare il cappotto sotto, in modo che il nocciolo non scendesse oltre quella cosa lì, per poterlo raffreddare, perché sennò ci sarebbe effettivamente avuto il pericolo di quello che è la, che sta a spiegare tecnicamente cos'è la sindrome cinese, quello con la paura. Beh, Roberto è lui l'esperto. Ma io, a parte, non entriamo in dettagli tecnici e io non sono un fisico nucleare, in realtà buona parte del nocciolo si è fuso ed è stato scaricato in atmosfera. Adesso io, che possa raggiungere il centro della Terra, io non nutrirei qualche dubbio. Adesso però, ripeto, non sono un fisico nucleare, quindi non voglio lanciarmi in stupidaggini. È vero un fatto che se non fossero intervenuti soprattutto quei tre ingegneri che hanno svuotato le piscine, ci sarebbe potuto essere una grandissima esplosione che avrebbe potuto far esplodere gli altri tre reattori. Ne è esploso uno. Immaginate cosa sarebbe potuto accadere con l'esplosione di tutti i reattori e una dispersione folle di materiale radioattivo. probabilmente per migliaia di chilometri ci sarebbe stata la cosiddetta zona di esclusione, sarebbe stata una catastrofe planetaria, cioè con conseguenze gravissime in tutto il pianeta, per cui è una cosa inimmaginabile. Ancora noi che ne parliamo probabilmente abbiamo difficoltà a comprendere quanto grave è stato quello che è successo e quello che sarebbe potuto succedere. Per cui sì sì, leggo in chat, poteva perforare il pavimento per il calore, poi fin dove arrivava è finito nella falda acquifera, inquinando, esatto, in maniera inquinando tutta la, una zona molto molto più vasta, perché vabbè, comunque non è questo adesso soffermarci anche su una questione che poi è anche strettamente tecnica, certo. Diciamo, non andiamo, esatto, su quello. Il problema è che, come diceva Carlo, la nostra generazione, per quanto noi eravamo ragazzini, magari spesso e volentieri non ci pensavamo neanche, però chiaramente quando sentivi o intrasentivi, diciamo, con la coda dell'orecchio, diciamo così, notizie un po' particolari, ti veniva sempre un po' il panico, no? La paura del fatto che ci sarebbe potuto essere, capito, un tipo di situazione piuttosto che un'altra. E io ricordo che, cioè, molti magari questa cosa l'hanno vista in qualche film o telefilm, ma in realtà alla fine era la realtà, tipo le istruzioni a scuola in caso di disastro nucleare, che erano le stesse del terremoto, fondamentalmente. Sì, un po' inutili nel caso di distruzione di nucleare, ma sì, c'era. Cioè, capito? Quindi comunque, tu mettiti sotto il banco e non ti succede niente, insomma. No, io ci rido, io però mi ricordo così, bene le istruzioni che comunque davano, queste me le ricordo benissimo, tutti i giorni al telegiornale, di cosa fare, cosa non fare per il fatto della nube radioattiva che ci stava passando sopra, e quindi di non mangiare l'insalata, non dovevi, esatto, bere il latte, non bisognava giocare in giardino, non bisognava toccare l'erba, sì. C'era tutta una serie di istruzioni che tutti i giorni davano, e poi la gara a procurarsi un contatore Geiger, ma forse, esatto, questa la racconta meglio Davide, perché lui, beh, oltretutto era già maggiorenne. Esatto, allora, io in quel periodo lì avevo un'altra età, l'ho vissuta in un modo sicuramente diversa, perché ho un ricordo, forse appunto perché il fatto comunque che sia invisibile questa cosa, un po' come tutti i ragazzini, no? Se la cosa è invisibile non esiste quasi, no? Cioè questo concetto, c'erano tutte queste raccomandazioni, non mangiare le verdure, non toccare gli animali, sì, le mucche, sì. C'era un sacco di cose, però tutto sommato, a parte che io di verdure non ne mangiavo pochissime, quindi dicevo, vabbè, te non c'hai il problema, esatto. Però in linea generale c'erano tantissime altre attenzioni, il latte, fallo bollire, c'erano tante cose che poi erano anche improvvisate, devo dire, secondo me. E fatto sta che l'ho vissuta come se fosse stata una brutta cosa, ma che è capitata così lontano che non mi aveva toccato particolarmente, sebbene i telegiornali continuassero a dire che la nube tossica è passata anche sopra di noi, è stato un rischio molto elevato. Parlavano, ovviamente c'erano i soliti telegiornali, come si chiamano quelli che si mettono lì a discutere, fanno vedere i modellini all'Emilio Fede col modellino costruito della centrale, che spiegavano tutte le cose, no? E raccontavano quanto è stato pericoloso, quanto ci siamo avvicinati alla fine del mondo, cose così. Però in quel momento, in quel periodo, probabilmente ero talmente impegnato in tante altre cose che questo è passato per me davvero quasi, mi ricordo pochissimo di questa roba come una roba brutta e pericolosa, me la ricordo come una seccatura che è capitata in quell'anno, e che anche seguivo anche poco i telegiornali, in televisione guardavo pochissimo i telegiornali, se devo dire la verità, non ero uno molto informato. Vabbè, tu eri impegnato a fare No Bungalow, e quindi giustamente. Sì, ero impegnato in mille cose, e in quel periodo poi lavoravo anche in negozio, e l'unica cosa che notavo, vedevo il business in realtà, perché il negozio dove ero c'era veramente ogni giorno, non mancava almeno una decina di persone che entravano, anche di più, a chiedere se avevamo contatori Geiger o in kit già fatti. Contatori Geiger, esatto. E noi li cominciavamo a procurare, a trovare, c'era la domanda e noi ci siamo, diciamo, abbiamo sfruttato questa situazione per fare soldi come l'hanno fatto l'anno scorso quelli che vendevano i pulsossimetri piuttosto che i misuratori di febbre a distanza, no? Cioè, è capitato la necessità e un pulsossimetro da 9,90 euro è diventato da 90 euro minimo. Ma infatti il saturimetro is the new contatore Geiger alla fine, se esatto, esatto. Davvero è proprio così, il saturimetro è diventato uno già. Adesso no, sono scesi, ormai siamo ritornati ai livelli quasi del pre-COVID. Ce l'hanno tutti, anche doppio, sì. Triplo. Quindi. Poi c'è uno su un canale YouTube che se l'è costruito da solo. Esatto. Che tra parentesi, diciamo, parla di costruire da solo il contatore Geiger, una famosa rivista. Sì, esatto. Poi anche Nuova Elettronica, ovviamente, è uscito subito poco dopo col kit per farsi il contatore Geiger, e guarda caso con tubi russi, perché i tubi, ma anche gli americani stessi, i tubi Geiger si sono quasi tutti russi, difficilissimo trovare gli americani, ma già ai tempi, ma anche oggi stesso non li fa quasi più nessuno. Comunque, vabbè, io l'ho vissuto più da un punto di vista quasi commerciale, e poi come quelle cose che capitano, che sono fastidiose. Tra l'altro l'informazione, ricordiamo che l'informazione che arrivava era tutta di terza, quarta mano, non arrivava mai quello che era successo davvero, non si sapeva, erano tutte presupposizioni. Esatto. Molte cose non si sanno ancora oggi. Quindi. Esatto, comunque all'epoca erano tutte di gente che ha ipotizzato, visto le quantità di radiazioni, il movimento, i tempi e tutto, hanno fatto tutta una serie di simulazioni, magari ingegneroni di tutti i generi, e hanno ricostruito un po' quello che è accaduto. E quindi erano anche notizie che potevano anche non essere corrette. Cioè, io l'ho seguito veramente con abbastanza, non dico indifferenza, ma leggerezza, mettiamola così. Però tu sei andato a votare all'epoca. Certo che sono andato a votare. Ma come tutti, perché c'è quelli... stato il famoso, sì, referendum. Non ricordo l'anno in cui ci fu quel referendum, ma poco dopo, se non ricordo male, qualche anno dopo al disastro. E ricordo che quel referendum, senza neanche rifletterci sulla base di quello che era con l'esperienza di quello che era successo, senza neanche sapere quasi esattamente cosa fosse successo, ma sapevamo che era pericoloso, senza riflettere. 1987 era, Ok. Due anni dopo, quindi nell'87, due anni dopo, è stato facile per quel referendum vincere, voglio dire, in Italia, perché erano davvero Ma infatti è stato, cioè, fu fatto anche proprio sull'onda emotiva. Comunque io ricordo per esempio l'anno prima dell'87, quando sono stato in Nuova Zelanda, nel 86 erano in Inghilterra e intervistavano praticamente i responsabili della centrale nucleare di Latina, che probabilmente già sapevano che si sarebbe smantellato tutto, insomma, tra l'altro, come che poi tra l'altro la centrale nucleare di Latina, da quello che mi disse Arturino Mazzeno, era manco, insomma, sto gran capolavoro, insomma, nel senso che non era sta grande centrale, insomma, e vabbè, comunque. Al di là di tutto, in effetti, la questione legata alle notizie che arrivavano, che erano notizie, come diceva Davide, di seconda, terza mano, ma più che altro anche notizie di interpretazione, cioè comunque, esatto. diciamo si basava su quello che gli scienziati potevano supporre sulla base di quelle che erano le conoscenze, insomma, quindi in realtà era un po' tutta una serie di cose. Sicuramente la nube radioattiva che si è fatta il viaggio per tutto il mondo, insomma, quella c'era poco da teorizzare, insomma, cioè nel senso, quella era un dato di fatto. E sta questione delle insalate, del latte, di tutto quello che era poroso, diciamo così, che poteva respirare radiazioni e che non poteva essere mangiato, insomma, questa è una cosa che ci ha segnato tanto, un po' come il periodo in cui non si poteva mangiare il pollo perché c'era l'aviaria e via dicendo, cioè nel senso, tutte cose che sicuramente erano collegate a una base di verità, ma poi si estendevano con l'esagerazione a tutto il resto, anche perché poi non credo insomma che fosse stato, cioè non credo che fosse il latte il problema, insomma, onestamente i problemi erano più quello che respiravi, che calpestavi, che toccavi, che in generale comunque ti portavi dentro casa. Quindi alla fine questo è un po' una questione da tenere in considerazione. Io lo ricordo molto questa cosa, e mi ricordo che mi scioccò abbastanza, perché non capivo bene un po' tutti i meccanismi, ma percepivo la gravità della situazione, e questo forse è una cosa che oggi capita di meno. Forse è vero che, come dice Carlo, tante volte siamo noi che siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo una percezione diversa delle cose, però con Fukushima non ho avuto la stessa percezione dell'angoscia, della cosa drammatica, insomma, che è stata in quella situazione particolare. Però aspetta, io qua però metterei un però solo veloce, perché è capitato in un paese dove hai più fiducia di quello che possono essere, cioè un incidente capitato in Giappone sai che viene gestito in una maniera eccellente, un incidente capitato in Russia, allora, sai che viene gestito sotterrando. No, mi dispiace, su questo non sono molto d'accordo, perché in realtà il commento che cercavo prima, e che evidentemente deve essere stato cancellato dall'autore, quindi non ricordo il nome, però era interessante come tipo di affermazione, che al di là della fiducia o non fiducia che hai verso il nucleare, il problema sono i governi in generale, non è un governo di quel tipo piuttosto di quell'altro, perché di fronte a una catastrofe così importante, anche i giapponesi non è che hanno un po' ritardato pure lì sulle informazioni, ma no, è tutto a posto, oppure non dicevano niente. Poi improvvisamente si è capito che insomma c'era, a parte che lì ovviamente c'era poco da dire, cioè c'hai avuto un terremoto devastante, uno tsunami che ha spaccato tutto, e una centrale nucleare che giustamente ha detto: sai che c'è, anche io voglio contribuire insomma. Allora, sentite, facciamo una cosa, una piccola pausa con un pezzo che apparentemente, per chi se lo ricorda, potrebbe non c'entrare in niente. Cioè, sapete quelle cose che tu dici, ma che c'entra sta cosa? È una cosa un po' così cazzarella. Invece in realtà c'è il suo perché. E adesso ce l'andiamo a sentire. Tra le decine e decine di opere ispirate al nucleare, al disastro nucleare, all'apocalisse nucleare, alla devastazione, esatto, alla fine del mondo, e c'è anche questa canzone che tutto sommato tu te la zompettavi d'estate, magari non capivi più o meno di che cosa trattava, ma comunque all'interno della canzone ci sono esplicite, insomma, riferimenti al nucleare, no? La bomba escaiò, il vento nucleare e via dicendo, insomma. Quindi insomma, esatto, Carlo, una canzoncina allegra che racconta la tragedia della quello che dicevo prima, cioè che si viveva, era la nostra vita quotidiana. Noi tutti i giorni comunque avevamo un pezzettino del cervello che pensava che da un giorno all'altro saremmo potuti avremmo potuto vivere il fallout, per dirla col videogioco, fallout radioattivo del... esatto. Esattamente. E, per esempio, una delle... ve lo ricordate Ai confini della realtà? Ma voglia, come non mi ricordo, è una puntata che a me aveva fatto paurissima. Io poi, dopo aver visto quella puntata, me la sognavo di notte, che era una puntata dove un tizio aveva trovato un telecomando che gli permetteva di fermare il tempo quando voleva, no? Lui lo schiacciava e si fermava il tempo, e lui faceva quello che voleva, poi lo rischiacciava e riandava avanti. E la puntata è, lui è con tutta questa cosa, fa tante cose divertenti, cioè riesce a mettere a posto situazioni, eccetera eccetera, diventare ricco, fino a un certo punto in cui la puntata finisce dove lui ferma il tempo perché è scoppiata la terza guerra mondiale e ferma il tempo con i missili a delle testate nucleari che stanno per colpire le città. Me lo ricordo. E basta, e rimane così, e dice: io adesso non posso più. L'ho utilizzato, se ti ricordi, perché suonavano a casa sua degli attivisti che gli dicevano: firma anche tu contro il nucleare, contro la fine. Sì, esatto. Lui bloccava il tempo e li spostava fuori dal suo cancello in posizioni ridicole, perché per testimoniare come: ma sì, ma cosa vuoi mai che capiti? E poi alla fine è costretto a bloccare il tempo, come giustamente dicevi, col missile con la scritta CCCP a pochi metri dal terreno, e a non poterlo più riattivare, altrimenti sarebbe morto. Esatto, me la ricordo benissimo sta puntata. Io non l'ho visto, adesso mi avete messo una curiosità, me lo vado a cercare sicuramente. Poi diciamo anche in realistico, perché in realtà, cioè, non è che il missile arriva fino a terra prima di esplode, insomma, cioè, però questo poi vabbè, era il concetto, dai, chiaro. Sì, chiaro. Sì, no. Volevo comunque aggiungere solo una piccola parentesi che mi dimenticavo. Io, vendendo ovviamente i contatori Geiger, è evidente che avevo un contatore Geiger in casa, non mi sembra il minimo. E forse io ero più tranquillo, fintamente tranquillo, perché non rilevavo mai nulla di particolare con questo contatore, su quello che erano i cibi, su quello che era l'ambiente in casa, eccetera. Quindi o non funzionava bene, oppure funzionava ed ero tranquillo che tra i tanti che non ce l'avevano, io ce l'avevo, riuscivo a sapere che quella mela o quell'insalata non aveva radiazioni, ero felice, mangiavo quello che volevo senza problemi. C'è una storia sui contatori. Esatto, c'è magari non funzionava. Storia sui contatori che è tragica, cioè all'inizio dentro la centrale non si resero conto di quanto stava accadendo. Perché? Perché avevano dei piccoli contatori che si utilizzavano su se stessi, che avevano un fondo scala estremamente basso, ok? Mentre quelli con fondo scala alto erano, non so in quale cassaforte, qualcosa, perché erano costosi, quindi non avrebbero dovuto utilizzarli. E loro, sbagliando, misuravano la radioattività che andava a fondo scala e gli misurava a 3, adesso non ricordo esattamente l'unità di misura. Poi vi spiego il motivo di questi e quindi loro erano convinti, vabbè, 3 sì, è alto, però no, nulla di tragico, finché sono andati con i misuratori reali e si sono accorti che non era 3 ma era tipo 700, e quindi si sono finalmente resi conto di cosa stava accadendo, che stavano per morire, si sono resi conto. Esatto. Purtroppo, no, comunque sì. I misuratori così di poca portata, non è che sono di poca portata perché costavano di meno o altro, semplicemente perché più è alta quello che può misurare e meno è preciso sulle piccole variazioni, siccome lì loro devono essere allerta appena c'è una variazione di qualche micronano eccetera, appena si alza di pochissimo c'è indice che c'è qualcosa che non quadra. Se hanno uno strumento che misura tantissimo, non riescono a vedere i micro, vedono solo delle grosse variazioni, e quando vedono quelle grosse variazioni è già tardissimo. Per cui è bene avere dei sistemi molto molto sensibili, ma questa sensibilità la paghi perché hanno un fondo scala molto piccolo, misurano perfettamente da 0 a 10, e mentre invece quell'altro misura da 0 a 1000 e l'uno non si vede nemmeno nella scala, no? Per cui è già uno, è gravissimo. Allora devono avere quelli piccoli, e chiaramente poi hanno quelli più grandi che in teoria non avrebbero mai dovuto entrare in azione, perché una perdita di quel genere non era prevista. Per cui no, perché tutti pensano che erano più economici, perché perché c'erano quelli lì scarsi così, no? Perché se avessero quelli grossi sempre, o che misurano fondoscala molto grandi, non apprezzerebbero le variazioni minimali, che sono comunque degli indici importantissimi nelle centrali, perché appena si alza di qualcosa, di un pelo sopra, c'è qualcosa che sta succedendo da qualche parte, poi bisogna andarla a identificare. Il motivo è quello, in realtà non è niente non è niente di sbagliato, è tutto giusto, è corretto quello che hanno fatto, e magari non è stato corretto non ti sono vederlo a fondo scala. Vederlo a fondo scala e non immaginare che potesse andare oltre, ecco. E dire ci sono proprio giusto 10 no, magari sono 11, cosa ne sai, e allora sarebbe meglio andare a prendere quello. Non erano 11 ma erano 1000. Adesso credo che in ogni centrale ce ne siano ognuno individualmente a quello da 0 a 10 no, e ma penso che adesso quelli da 0 nuovi a quelli nuovi fanno anche da minima variazione a massima, immagino che ci siano evoluti dopo 30 anni a 35 anni avranno è voluto anche i contatori Geiger, ma proprio su uno di quei video di cui parlavo prima c'era questo tizio che praticamente faceva la scorta a sti ragazzi, che praticamente aveva due contatori diversi, uno pure abbastanza piccolo, e faceva vedere la differenza nell'arco dei 5 metri, che tipo di differenza c'era a livello di radiazione ambientale sul terreno, cioè roba che passava da tollerabile a definitivamente mortale, cioè nel senso ancora oggi ci sono delle forti variazioni, e chiaramente insomma se non c'hai strumenti del genere non te potresti proprio minimamente muovere in quella situazione, fermo restando che se non ci andate è chiaramente meglio, insomma. Però ho visto che pure in Giappone fanno i tour con gli autobus per Fukushima, per arrivare praticamente al limite della zona consentita, per far vedere che poi... Ma qua abbiamo tra di noi uno che ci è andato, Tu ci sei andato? Non io. Io no. No, chi? Diamo. Io nemmeno. Ah no, allora nessuno ci è andato. No, io sono stato in Giappone, ma non sono stato a Fukushima, sono stato non a Fukushima, a Chernobyl. Ah no, a Chernobyl, ok. E chi è? Roberto, non sei andato a Chernobyl tu? No, ancora no. Mi sono sbagliato allora. Madonna, ma perché avrebbe dovuto soprattutto? Simone, quello che tu dici, sai, di questi tour così, io non mi ricordo se era un telefilm tarocco o era proprio così, ma ho l'impressione che circolino dei video o qualcosa di tour illegali, di gente che porta per via traverse all'interno di Chernobyl, gente che paga per andarci. No, ma questo te l'ho detto prima. C'era un film. In realtà questa cosa oggi con gli youtuber che fanno i video, in realtà è illegale, però è, diciamo, tra virgolette, semi ufficializzata, tollerata, cioè nel senso, diciamo, che si sa che c'è, ma quando facevano i primi tour, io te parlo di 10-15 anni fa, anche di prima, in realtà era totalmente illegale una cosa del genere, cioè, ma tipo da fucilazione immediata all'istante, cioè non è che ci si scherzava. E quindi questi facevano praticamente sti tour dove si muovevano solo ed esclusivamente di notte, in percorsi che questi stalker avevano evidentemente già, come posso dire, progettato, perché chiaramente si dovevano muovere con una certa disinvoltura e tu gli dovevi stare dietro, perché non è che c'era il tempo di oddio sono stanco o roba del genere. E chiaramente insomma questa è roba. Per quanto riguarda il Giappone invece l'hanno fatto proprio vedere su YouTube, penso uno dei tanti tour operator italiani che stanno in Giappone, tipo Tommaso o qualcuno di questi, adesso non ricordo chi, che praticamente sta sto pullman che ti porta fino al consentito, poi se lui si ferma, se tu vuoi andare avanti so cazzi tua, cioè proprio ormai si fa di tutto. Fammi precisare, visto che c'è un dibattito in chat, allora diamo i valori. L'unità di misura che viene utilizzata è il Röntgen ora. E quelli col fondo scala che erano interni erano 3,6, e quelli normali che arrivavano fino a 360.000 Röntgen ora hanno misurato 20.000, quindi loro erano convinti di essere a 3,6, in realtà erano a 20.000. Qualcosina di più che appena non te ne accorgi, sì, che quando lo vedi dici lo strumento non sta funzionando per morire bene. Bastano 500 Röntgen in 5 ore. Esatto. Dipende chiaramente dal tempo di esposizione. E quasi tutti hanno avuto molto di più. Molti di questi sì, direi di sì. Assolutamente. Beh, io un'altra cosa che mi ricordo, non so se qualcun altro se la ricorda, ma per anni si è andato avanti, ma tanti anni dopo, a dire, per esempio, quando andavi in un negozio di antiquariato e vedevi il tavolo di legno massiccio, eccetera, attenzione che magari se costa poco questo l'hanno preso da Chernobyl e l'hanno portato qua, eccetera. Cioè, si raccontava di questo trafugare, in effetti, ma di materiale radio, di cose, tavoli mobili. Con il metallo è successo. Sì, è vero, è vero. Sono stati delle campagne. Mi ricordo qualcosa sui metalli che arrivavano da Chernobyl. Beh, considerate che si faceva sempre molto scherzare sulle sigarette. Io mi ricordo al mare da me, c'erano i russi che si facevano le spiagge e vendevano queste sigarette senza bollino, quindi erano tutte d'importazione. Quindi, che ne so, una Marlboro invece costa 3 euro, costava 1,50 euro. E tutti quanti diciamo, vabbè, adesso sto di. C'erano le lire, mi sa, allora ancora. Ma da voi c'erano i russi, da voi c'erano i marocchini. No, ma i marocchini c'erano pure da noi, però le sigarette le vendevano i russi. Perché noi ci abbiamo avuto questa grossa ondata di russi post muro di Berlino. Che hanno portato da una parte nei mercatini, come dicevo l'altra volta, molto materiale interessante. Quindi orologi di precisione, ottica di qualità, macchine fotografiche, quindi tutto quel materiale lì. Dall'altra hanno portato medicinali, cose, sigarette di contrabbando e via dicendo. Noi compravamo ste Marlboro, mi ricordo che dicevamo così, stanotte quando respiriamo ci si vedono i polmoni, cioè nel senso, pensando al fatto che venivano direttamente da Chernobyl, capito? Cioè, quindi c'era sta cosa che poi era un modo pure per sdrammatizzare. In realtà avresti dovuto pensarci che in effetti potevano benissimo venire da Chernobyl, non è che c'era il certificato DOP di provenienza, insomma. Adesso vi do una curiosità veloce, proprio una. Quando noi vendavamo questi contatori Geiger per vedere se funzionano, se vanno, non avevi un pezzo di uranio da provare, che ne so, un pezzo di materiale radioattivo. E allora cosa avevamo? Ce l'aveva dato proprio chi lo vendeva, semplicemente la polverina delle lancette degli orologi, quella fluorescente, fosforescente. Quella aveva una sorta di fondo radioattivo e tu lo attaccavi al misuratore, proprio dovevi proprio andare attaccato, e cominciava a fare e cominciava a misurare qualcosa, no? E allora in quel periodo mi ero un po' un attimo invece spaventato e avevo eliminato da casa mia tutte le cose con le lancette fosforescenti, perché dicevo, cazzo, è radioattivo. E in realtà la quantità di radioattività che ha è esattamente quella di un muro in una casa, perché noi sappiamo che nelle case che abbiamo esiste un materiale, una specie di gas tossico che si chiama radon, che è una roba che in determinati ambienti, dovuti credo al cemento, non ho mai capito bene da no viene dal qua. Viene, il radon viene emesso dalla terra, soprattutto dalla in particolari terra. Posti nel Triveneto, in Friuli Venezia Giulia. E bisogna fare molta attenzione, infatti le case andrebbero costruite con dei vespai sotto per disperdere il radon, può essere molto pericoloso. Difatti io sapevo di questo radon. Rimane intrappolato nelle camere, diciamo, salendo da sotto, per quello vanno impermeabilizzate, altrimenti entra, rimane intrappolato ed è molto pericoloso il radon. Comunque sapevo di sto radon, che a casa mia non c'era perché lo misuravo, io poi ho portato a casa il mio coso, ho misurato dappertutto, in tutti gli angoli, non avevo niente, effettivamente non sapevo da dove venisse bene, ma sapevo dai muri o robe del genere, anche perché le notizie che arrivavano erano, non erano notizie che leggevamo sui libri, leggevamo così, arrivavano i clienti e ci dicevano, ah, nelle case ci sono il radon che esce dai muri, allora vai a misurare i muri, il latte. Allora io mi ricordo queste belle madonnine fosforescenti, che poi alla fine voglio dire erano, cioè pure quelle erano radiazioni, poi no, se ci pensi, minimali, sì, però insomma. Comunque il coso ticchettava se tu ci andavi vicino a questa polverina, che quella di una lancetta. Ma erano quelle che cambiavano colore rosa, azzurro. No. Quelle le lancette dei vecchi orologi, anche quelli da polso, o comunque le sveglie grosse al buio, si illuminavano di azzurrino, no? E c'era una polvere fluorescente, fosforescente sopra, che ha un comportamento pseudo radioattivo molto debole, però che se tu la metti a contatto con il sensore fa circa un tic tic tic tic, e quindi sai che sta funzionando sto aggeggio che hai in mano. È giusto che faccia questi 2-3 tic tic, niente di più, ma di natura un misuratore Geiger in un ambiente normale fa un tic all'ora, sembra che non funzioni niente, non sai se sta funzionando o no. Mi hai fatto venire in mente una pubblicità assurda degli comunque vernice al radio, ma non vi spaventate, non so chi è che se la ricorda la pubblicità illumina i pesciolini. No, non me la ricordo. No. Era una pubblicità assurda di un tizio che sembrava Einstein, e questa non mi ricordo se era l'IP eccetera, regalava una barretta che se tu la piegavi si faceva luce. La tracking light. Esatto, la tracking light, e lui faceva vedere vari usi parlando in un italiano tedesco con accento tedesco, e una degli usi era l'accendeva, la buttava dentro nell'acquario e diceva illumina i pesciolini. Sì, vabbè, ok, mo me la ricordo, sì. No, che poi tra l'altro io stavo in fissa, perché per me era tipo la spada laser quella, cioè nel senso, poi tu la vedevi in pubblicità, faceva una luce incredibile, poi magari faceva la luce più. Però tu il fatto che la piegavi e quella praticamente c'aveva questa reazione e si illuminava, quello è materiale radiattivo, sono isotopi quelli, assolutamente. Quelli più vecchi erano la prima il radio, poi si sono utilizzati degli altri materiali un po' meno radioattivi, erano radioattivi ma non debolmente radioattivi, è un po' più del fondo naturale, insomma. Comunque più avanti, parecchio più avanti, adesso non si utilizzano più materiali radioattivi, sono delle sostanze che utilizzano sì. altri principi, quindi non sono più assolutamente radioattivo. Uno credo che si chiami Luminova, se non mi ricordo male. Sì, io ora ricordavo pure che venivano prelevati dai pesci, qualcosa del genere, il materiale quasi organico, pseudo organico, dei certi pesci fluorescenti, qualcosa del genere. A proposito di spada laser, hai sentito che l'hanno fatta adesso che che la spada laser vera, copyright Disney, l'ha presentata, che l'accendi, si allunga e poi la spegni, si ritrae. Sì, l'ho letto, ma non ho letto l'articolo perché c'avevo paura che mi incazzavo. Quindi, però, se tu dici che è così, mi fido del tizio. No, l'ho letto, anche se in realtà è meccanica sempre. Non è, sì, non sì, è, c'è un guardatrucco. È chiaro, non esiste un campo di forza che mantiene un raggio di plasma. Diciamo che l'impressione è quella, cioè alla fine è come se accendessi e spegnessi la spada laser, quindi vabbè, è divertente. Quindi voglio dare qualche altra informazione, magari tornando un attimo al sì, posso dire soltanto una cosa, certo. Un secondo al volo, poi dopo ti lascio con in realtà, tornando a Fallout, quindi all'universo di Fallout che ho raccontato prima, quindi tutta un po' la mitologia, la lore di questa saga dei videogiochi, in realtà la cosa affascinante, e che poi alla fine questa cosa della tracking light non ha fatto venire in mente, è il fatto che su questa saga dei videogiochi si racconta una società post-futuristica, cioè quindi una società che è arrivata ad un'altissima tecnologia, ma con la tecnologia tipo degli anni 50 in America. Anche la propaganda, la comunicazione, la forma delle auto, roba del genere, erano in stile anni 50, no? E quindi ecco perché viene chiamato retrofuturismo, no? Cioè comunque quella fantascienza che ammicca molto a quella tecnologia, insomma, più desueta. Questi ci avevano le macchine a energia nucleare, però poi i computer ci avevano ancora i monitor a fosfori verdi, no? Per capirci, insomma. Lo steampunk, no? Esatto, super giù, diciamo che si avvicina, ammicca molto a quel tipo di stile lì. E all'interno di questa saga c'è un prodotto, una bevanda che si chiama Nuka-Cola, che chiaramente vabbè, voi dovete considerare che Fallout è una grande opera parodica della società americana, poi fondamentalmente. E tra i vari modelli della Nuka-Cola, che è la Nuka-Cola Cherry, Nuka-Cola c'era la Nuka-Cola Quantum. E la Nuka-Cola Quantum non è nient'altro che una Nuka-Cola, quindi praticamente sta cola fondamentalmente, con all'interno un isotopo radioattivo che la rende luminosa. E ovviamente tutto per una questione di marketing, cioè per vendere, questi erano disposti a fare praticamente perché il nucleare in quel caso nel mondo di Fallout prima della catastrofe nucleare era ovunque fondamentalmente. Poi c'è stata la famosa guerra con la Cina che praticamente ha distrutto il mondo perché si sono tirati bombe atomiche fino alla fine dei tempi, insomma. Niente, volevo raccontare questa cosa perché in effetti è particolare questa cosa della Nuka-Cola Quantum, che tu andavi a vedere nelle controindicazioni, facevi oltre un po' di ebbrezza e un po' di formicolio nel tutto il resto del corpo, l'unica controindicazione è che fai la pipì per 3 giorni un po' luminescente, insomma, un po' te... Vabbè, c'era questa cosa così, controindicazione che mi fa ricordare l'oscilloscopio in una tua famosa trasmissione, ma lasciamo andare questa cosa. Allora, tanto le zie della Barbie is the new oscilloscopio, quindi è una cosa che mi porterò dietro per i prossimi 10 anni, quindi c'è sempre una cosa che lascia l'eredità. Ragazzi, ma noi rimaniamo cialtroni anche quando parliamo di argomenti seri. Esatto, ed è perché siamo così, ma è anche una cosa voluta. Allora, volevo riprendere alcuni punti che per completare un attimino il nostro racconto. Però prima di farlo, visto che mi avete tirato, 2 o 3 informazioni al volo. Tutti parlano di Stalker, io consiglio a tutti di leggere il libro prima ancora di vedere il film, che è bello ma è un po' particolare, quello di Tarkovsky, di leggersi il libro di Arkady e Boris Strugatsky, sono 2 russi, non per nulla, Stalker, che è quello originale. Secondo me il libro è molto molto più bello del film, e quindi parla delle zone di esclusione di questi stalker, che appunto erano quegli esperti che riuscivano a attraversare le zone quasi sempre senza morire, e anche gli altri quasi, perché molti morivano, e anche gli altri libri di Arkady e Boris Strugatsky, perché sono veramente bravi. Questo una piccola parentesi. E allora riprendiamo alcune informazioni, anche se in maniera molto veloce. Quali sono state le conseguenze e le coperture giudiziarie che ci sono state dopo l'incidente? Diciamo che sono stati licenziati in 67 e 27 furono espulsi dal Partito Comunista, che forse nell'Unione Sovietica è anche peggio di essere... Era la morte. Era la morte totale. E questo perché nel 1986, a seguito di un processo a porte chiuse che avvenne, vennero condannati a 10 anni di lavori forzati per negligenza criminale il Viktor Bryukhanov, che era il direttore della centrale, e Nikolai Formin, che era l'ingegnere capo, e a 5 anni per abuso di potere a Anatoly Diakov, che era il vice capo ingegnere, che era in quel momento a capo del comando, diciamo, della centrale, e al capo della vigilanza, più altre pene minore per gli altri. Nel 1991 ci fu un altro procedimento in cui in realtà, e forse giustamente, io penserei di dire che attribuì maggiore responsabilità ai progettisti, quindi al capo progettista della centrale e a chi aveva fisicamente eseguito questa centrale. Probabilmente le responsabilità sono di tutti, però è chiaro che nascono col progetto. Ci sono state milioni di cause civili, una abbastanza famosa è quella in Francia, di 500 persone che hanno citato in giudizio un professore esperto di radioattività, Pierre Pellerin, perché andò in televisione e alla radio a dire che si poteva tranquillamente continuare a bere latte, mentre in realtà poi fu provato che molte di queste persone che hanno bevuto questo latte hanno avuto delle conseguenze. Lui disse che la nube non aveva attraversato la Francia, che quindi il latte si poteva bere, in realtà non era così. Si scoprì che la cosa fu coperta, comunque costui fu assolto. Un'altra informazione è che questo incidente, comunque all'epoca c'era già Mikhail Gorbaciov, questo va ricordato. Certo. In un certo senso probabilmente aiutò, anche se in questa maniera tragica, a firmare dei trattati poi con gli americani, in particolare l'INF, perché si cominciò veramente a aver paura, perché si sperimentò, voglio dire, in maniera pratica quali potevano essere le terribili conseguenze del nucleare. Poi voglio solo citare gli altri 2 incidenti nucleari gravissimi, però nessuno di questi 2 incidenti nucleari ha avuto le conseguenze terrificanti di Chernobyl, né le conseguenze a livello, voglio dire, di persone morte. Morti. certo. di Chernobyl. Sono, vabbè, quello famoso di Three Mile Island che abbiamo citato prima, per il film Sindrome cinese con Michael Douglas e Jane Fonda, che avvenne nel 1979 ed è stato l'incidente più grave avvenuto negli Stati Uniti d'America, che comunque ha portato al rilascio di piccole quantità di gas radioattivi. Quindi lì la paura fu più che altro su quello che sarebbe potuto succedere. E abbiamo chiaramente parlato di Fukushima, o Fukushima, non so come si pronunci, quindi il terremoto, il maremoto. Qui in realtà la centrale funzionò bene, nel senso che i reattori si spensero quando avvenne il terremoto, quindi fin lì funzionò bene, però purtroppo lo tsunami si abbatté sulla centrale, distrusse i gruppi di generazione diesel, quelli di cui abbiamo parlato prima, che alimentavano i sistemi di raffreddamento. Quindi all'epoca non si pensò, probabilmente è anche comprensibile, al fatto che questo cigno nero, cioè che il terremoto avrebbe potuto generare uno tsunami che avrebbe potuto far spegnere i generatori diesel. Adesso, quando costruisci vicino alla costa, probabilmente fai in modo che i tuoi generatori siano impermeabili, e questo sfortunatamente l'abbiamo imparato in maniera tragica. E tenete presente, si parlava di meltdown del nocciolo. Tutte e tre le unità di Fukushima ebbero il meltdown completo, anche se in momenti diversi, questo è giusto per dirlo. Poi sul nucleare in Italia abbiamo parlato del referendum dell'87. Noi abbiamo avuto diverse centrali nucleari, il programma nucleare è cominciato nel 63 ed è stato smantellato nel 90. Abbiamo avuto quattro centrali nucleari in particolare, però sì, noi in Italia non ce l'abbiamo, però nel mondo ce ne sono centinaia e moltissime sono molto vicine ai confini italiani. Ne abbiamo credo 20 o 25 nel raggio di poche decine di chilometri, che sono in Francia, tanto per dire. Quindi è da verificare poi se la scelta che abbiamo fatto solo noi sia utile, o perlomeno se ne può parlare. Adesso noi non trattiamo se sia bene o male, però è giusto far notare questa cosa, così come è giusto far notare che sia la Svezia che la Germania hanno deciso, insomma, di pian piano allontanarsi dall'utilizzo del nucleare, compresa la Germania, che non è esattamente l'ultima arrivata. Questo, qualche informazione data molto molto molto velocemente. Adesso, se vogliamo, non so, parlare di tutto quello che c'è stato legato a Chernobyl, magari sentiamo anche voi. Quindi la serie, bellissima, mm-hmm. Chi non l'ha vista, veramente molto bella, confermo, vista due volte io addirittura. È bella la storia, sono bravi gli attori, è bella la musica, è bella una la fotografia. In maratona me la sono vista tutta in un unico colpo, la seconda volta, la prima volta l'ho vista a pezzi, mm-hmm. Poi c'è stata una maratona, non mi ricordo quando, era un periodo in cui si era a casa, e tipo iniziata nel pomeriggio e finita alle 4 o le 5 di notte, ma non sono riuscito a non vederla tutta ancora. Fatemi citare in chat Pier Grippa, che dice una cosa vera, cioè che le prime centrali nucleari serviranno ad arricchire l'uranio per creare le bombe. Questo, tra l'altro, ha probabilmente contribuito all'incidente di Chernobyl, perché Chernobyl era una centrale dual use, quindi civile e militare. Il fatto che quando questo avviene, cioè quando si usa la centrale per arricchire l'uranio, è necessario montare un carro ponte molto alto sopra questa capsula dove avviene questo arricchimento. Quindi questo carro ponte ha impedito di creare un tetto molto spesso e molto grande, perché la centrale, il cui reattore era alto 70 metri per permettere al carro ponte di fare queste manovre, quindi non si poteva mettere a 70 metri un peso esagerato. Quindi il fatto che questa centrale fosse anche militare senz'altro ha contribuito al disastro. Non sappiamo se sarebbe venuto lo stesso o no, però ha aiutato. Sì, era una copertura parziale, avevo letto, non era totale. Per questo, appunto, per poter offrire la possibilità facilmente di tirare fuori le barre, che erano alte quanto la centrale, in pratica ci voleva un grande spazio. Attenzione, che attenzione quando si dice barre. Attenzione. Perché? Anch'io non voglio saperlo. Casco un attimo dal pero, ma... non lo so. Ci sarà un perché che ci è sfuggito, ma c'è. Sì, vabbè, io poi dopo Barbie sono terrorizzato, quindi no, non diamo. Ha detto barre, non Barbie. Esatto, no, no, la, le barre, la basta che pensate alla Clerici e vi viene in mente, insomma. Ah, la borra. Okay. Ma quello solamente a Monterotondo. La serie TV ha avuto un'ottima accoglienza anche in Russia. Ma questo, scusami, è strano però, perché parla malissimo del KGB, quella trasmissione lì. Come ha fatto a essere accolta bene in Russia? Il Ministero della Cultura ha detto che è un capolavoro, il ministro. Strano. Perché parla, comunque parla bene dei russi, sebbene sì, parli sì, ma parla bene dei russi, ma parla malissimo del KGB, perché alla fine la colpa è sua, cioè in pratica, cioè, quando guardi quella trasmissione. Quel... Il ministero ha detto è vero, il KGB è colpa loro, gli stronzi. Si vede che non vanno molto d'accordo con il KGB nemmeno loro. Evidentemente. Vabbè, io voglio aggiungere solo una cosa che vabbè, molti probabilmente lo sanno, però molti forse no. L'Italia in particolare, dopo il disastro di Chernobyl, ha aiutato tantissimo in vari modi, insomma, abbiamo aiutato le popolazioni russe, ma soprattutto abbiamo aiutato tantissimo con varie fondazioni i bambini delle zone adiacenti, quindi delle zone Ucraina e Bielorussia, eccetera. Sì, è vero, c'è stato quel periodo dei grandi adozioni. Anche, della, esatto, sì, più che adozioni, questo, in realtà è proprio le estati per permettere ai bambini di essere un po' meno esposti a questa continua emissione di radiazioni che c'è nel territorio. Si è organizzato le vacanze di tutti questi bambini in Italia per anni e anni e anni, cioè l'Italia era un po' la colonia estiva di questi bambini, e infatti ci sono tantissimi adesso adulti in Russia, eccetera, in Bielorussia, eccetera, che ormai diventati adulti ringraziano ancora adesso, si ricordano dell'Italia, eccetera, perché per loro erano delle vacanze bellissime, perché arrivavano da questi posti radioattivi, poveri, eccetera, venivano qua in Italia e facevano le vacanze in Italia, in posti anche di villeggiatura nostri, con, ospitati da tante famiglie, quindi avevano per tre mesi una vita che cercavano di farli stare al meglio possibile. Ma sì, poi avevano i giocattoli, gli regalavano i vestiti, non sai quanti quintali di vestiti, lo so perché conosco tantissime famiglie che hanno ospitato per anni questi, ma infatti questi bambini, il vero problema era tornavano era indietro quando, con ogni ben di Dio. Sì, però il vero problema era quando tornavano in Russia o in Ucraina, certo. Cioè, nel senso, il vero problema era là, perché tante cose gli venivano levate, o comunque vivevano molti in questi orfanotrofi o questi grandi aggregazioni, magari quelli che avevano perso i genitori. Insomma, vivevano in condizioni un po' particolari, cioè avevano sti due mesi insomma di felicità, poi dopo ritornavano all'inferno praticamente. Infatti molti venivano due mesi di felicità li avevano. Sì, no, però molti comunque venivano anche adottati, in effetti, comunque. Esatto. Sì, poi succedeva che li adottai perché magari poi ci si affezionava, insomma. Più che altro perché molti hanno perso i genitori anche proprio nella centrale o comunque lì vicino, e si ritrovavano un sacco di bambini che non avevano più genitori, che purtroppo sì. Che è successo questo, e molti sono stati adottati perché comunque, anche se li adottavano e li tenevano sempre lì in zona, non c'erano neanche le cure, non avevano neanche i mezzi per curarli praticamente. Qua in Italia invece, o comunque in tanti altri paesi, credo nel mondo, non credo solo in Italia, sono stati invece presi sia per curarli che per farli stare lontani da quello che era quel momento brutto, anche solo fosse un momento, anche se fossero stati a 1000 chilometri da dove era successo il problema, erano sempre in un posto dove non avrebbero potuto avere le cure, probabilmente, che probabilmente avevano anche paura, poverini, quindi sì poi avevano paura e avevano perso anche i genitori, molti di loro, ecco. Due cose al volo: una, la ditta che ha costruito il materiale metallico per il sarcofago famoso, che penso avete tutti visto, è italiana, Cimolai di Pordenone, quindi è un... Ma quello nuovo o quello vecchio? Quello nuovo. Questa è una cosa senz'altro positiva. Garantito per 100 anni? No, per parecchio. Me la son bravi. No, avevo letto che questo sarcofago avrebbe garantito per 100 anni, quindi è già in lavorazione una nuova versione per il prossimo step, perché 100 anni era la garanzia che questo sarcofago avrebbe protetto. quello in chat si parla di iodio. Ah sì, è vero, è per quello che lo facevano, però purtroppo lo iodio serve immediatamente, perché praticamente prendendo queste pasticche di solito di iodio si saturano certe cose e quindi l'organismo non assorbe quello invece radioattivo. Scarto, quindi ha senso se lo fai nelle prime 10 ore, farlo dopo praticamente non serve a niente. Infatti io ricordo la famosa, non so se conoscete la serie televisiva Jericho, che era un sottoprodotto di quelli fatti tipo dai canali tipo Fox, no? Sai, quei canali in mano agli ultraconservatori che viva l'America anche di fronte a una guerra nucleare, che c'era sto ragazzo che vede il fungo atomico da lontano, si rifugia dentro un capanno e si beve la tintura degli odio, che è una scena meravigliosa, proprio meravigliosa. Oppure infatti entra in un frigorifero, quello ancora meglio entra in un frigorifero e mi salvo dall'esplosione atomica, però quello è Indiana Jones, lui se lo può permettere. Esatto. Vabbè ragazzi, io direi che tra l'altro, yes, scusa Roberto, come si chiamava lo scrittore di Stalker? Tolkien, no, chi era? No, di Stalker, Arkady e Boris Strugatsky. Ok, no, io suggerisco anche un libro di Dmitry Glukhovsky che si chiama, sicuramente anche qui gli appassionati di videogiochi lo conoscono, ma in realtà il videogioco nasce da questo romanzo, che si chiama Metro 2034 ed è ambientato ovviamente nella metro moscovita, esatto, e successivamente alla guerra nucleare. Ovviamente è molto più proprio diretto verso la fantascienza, ma in realtà è un tema che a me appassiona tantissimo relativamente alla letteratura, alle serie televisive e al cinema in particolare, opere post apocalittiche relative a olocausti o distruzioni legate al nucleare, ce ne sono veramente tantissime. Mi preme sempre, lo faccio spesso quando capita, di suggerire un film che è un film post-apocalittico, anche se in realtà narrativamente non si capisce questa devastazione da che cosa arriva, se c'è stata una guerra nucleare o se è semplicemente un cataclisma naturale, perché non si capisce, ed è The Road, non so se vi è mai capitato di vederlo, ed è forse uno dei film più drammatici e senza speranza che io abbia visto nella mia vita, perché al di là delle solite contingenze diciamo relative a tutto quello che è il background post apocalittico, insomma relativo a questo tipo di narrazione, quindi predoni, cannibali, insomma qualsiasi tipo di pericolo mortale, in realtà il film racconta una storia proprio senza speranza, cioè proprio una storia che non può avere e non ha in nessun modo, potrebbe avere un lieto fine, quindi è una cosa, è un film terribile, però è bello perché comunque secondo me è fatto bene, ed è la storia praticamente di sto padre e di sto ragazzino che in realtà non c'ha neanche un nome, lui lo chiama il bambino proprio perché non gli ha voluto neanche dare un nome a sto ragazzino, pensate voi che psicologia, che situazione, insomma. E bello, bello, se vi capita The Road, cioè, però preparatevi, insomma, perché veramente sono tutti gli altri. Ma stasera tutti argomenti leggeri, divertenti, tranquilli. Vabbè, d'altronde era quello, insomma. La prossima la facciamo su qualche cagata, la prossima puntata. Se no. Allora, la prossima puntata che tocca a Davide Gatti, mi pare di aver capito che parleremo di vacanze. Sì. Parleremo di vacanze, cercheremo di fare una sorta di parallelo, comunque ci proiettiamo negli anni 70 e 80 per vedere come vivevamo le vacanze. Le vacanze che erano per molti molto diverse rispetto a quello che sono adesso, e gli usi, i costumi, un po' tutte le vicende insomma che andremo a ricordare, ognuno di noi sono sicuro che avrà un percorso diverso, una situazione diversa, sarà curioso vedere e ricordare certe cose che si facevano una volta che adesso magari non si fanno più o si fanno in modo diverso, ma sì, ma anche andare solo in aereo era un problema, cioè non era una cosa per tutti, anzi si andava in 500 in 600, i 1100. Esatto, infatti, anche, portapacchi con anche i primi viaggi, valigie sopra. I primi viaggi da soli, no? Cioè, nel senso, quindi tutta una serie di cose. Sì, le prime vacanze, che per tutti noi in quel periodo c'è stata la prima vacanza da soli, le esperienze, il casino che abbiamo fatto in giro, quanto ci siamo divertiti anche solo andare in giro senza avere un telefonino, senza avere neanche una lira in tasca, quasi. Il telefonino non era neanche nei nostri pensieri. Detto questo, io prima di chiudere mi dedicherei un secondissimo proprio a un bellissimo messaggio che abbiamo ricevuto, che un po' l'abbiamo spoilerato prima, perché appunto abbiamo detto che, cioè, nella mia storia oramai decennale dei podcast, passeremo da una leggenda a un'altra, così, senza colpo ferire, cose che mi porterò dietro per i prossimi 10 anni, tanto perché. E ringrazio Giulio Pavan che ci ha lasciato questo messaggio, che vi giuro, ragazzi, io ho riso per un giorno e mezzo. Mia moglie mi vedeva che andavo in giro per casa e ridevo, perché in effetti mi sono immaginato la cosa, e mi ha fatto anche riflettere sul fatto che a 50 anni è pure ora che la finisco di dire le prime cose che mi vengono in mente, semplicemente perché penso che siano divertenti, insomma. Però lui scrive: mia figlia, quarta elementare, sta preparando la creazione di un podcast a scuola. Il tema dell'ultimo episodio mi sembrava il top per farle capire come si fa un podcast. I giocattoli. Visto il tema, i giocattoli. Purtroppo Simone Pizzi ha cicciato la tetta alle Barbie. Ma anzi, io poi mi sono scusato, perché anzi, grazie a Dio che prima l'ha ascoltato, no? Dicevo: oh, guarda, c'è il podcast di giocanti, ne ascoltiamo. E io ci ho vedete le Barbie. Grande, grande, grande, avete ragione. Cioè, abbiamo un potenziale pubblico che dobbiamo tenere sempre in considerazione, anche perché non siamo una trasmissione explicit. Però, ragazzi, mi sembrava divertente. Io l'ho raccontato perché era verità. Poi non è che devi metterlo nei tag, così la gente sa di che cosa si parla nell'episodio. Esatto. Tette, Barbie. Oddio, magari però attiriamo un altro pubblico, chi lo sa. Sì, assolutamente. Però mi sono scordato. Poi, Carlo, mi sa che pure tu hai ricevuto messaggi d'auguri in tutte le lingue del mondo. Sì, però non ce li ho sentito manco, ma so che sono un disastro, non me li sono preparati. Vabbè. Comunque, grazie a tutti per i complimenti che mandate sempre. Infatti. Simone, abbiamo ricevuto tanti complimenti. Volevo ricordare solo rapidamente un parallelo, e ricordare il podcast di Archeologia Informatica con il clone venuto dal freddo sugli ZX Spectrum in Russia, che per me è stato un grande episodio di scoperta mondiale, che si collega anche, se vogliamo, in questo episodio, dove davvero io in quei periodi pensavo che loro avessero la tecnologia di 50 anni indietro rispetto a noi, cioè che fossero completamente indietro tecnologicamente, in una maniera, cioè che avevano ancora le valvole quando noi avevamo i circuiti integrati. E invece scoprire oggi, lo scopro oggi praticamente, lo scopro di questi tempi, in realtà anche nei periodi di Chernobyl loro avevano una tecnologia equivalente praticamente a quella nostra, piuttosto che quella americana, però era la loro tecnologia fatta con i transistor fatti a forma di bubone, al posto che forma come quella che conosciamo. Loro avevano il loro mondo chiuso, le forme non le copiavano, sì, in parte le hanno copiate, ma molte volte le facevano per loro iniziativa, era diverso dai nostri. Però io veramente ho immaginato fino a qualche anno fa che loro fossero sempre, e fossero ancora adesso, indietro di un sacco di tempo, e invece no, tecnologicamente erano, non dico alla pari, ma quasi. Quindi la centrale di Chernobyl non era un rottame fatto come immaginavo di pezzi di 100 anni indietro, era fatta come una centrale nucleare probabilmente americana, adesso non posso entrare nel dettaglio. Non puoi entrare nel dettaglio, ma sei caduto. Ciao, ciao Davide. No, comunque aspetta, sì, adesso te la faccio dire. E tra l'altro, appunto, ne approfitto proprio per dire: comunque andatevi ad ascoltare l'ultima puntata di Archeologia Informatica, dove parliamo appunto degli ZX Spectrum cloni del blocco sovietico, dell'Unione Sovietica. In realtà quello che Davide non sa è che è vero che anche loro avevano i microprocessori, ma erano microprocessori a valvole. E così aggiungiamo altre cose, così, no? Tanto per... Vai, Roberto, scusa. Allora, lo dico adesso perché così diamo tempo per prepararsi. Adesso vi spiego perché. Quando sarà di nuovo il mio turno, parleremo del gioco più violento del mondo e parleremo di un grandissimo scontro che di nuovo in parte coinvolge Stati Uniti e Unione Sovietica. Perché? Perché parleremo degli scacchi, parleremo della finale del campionato del mondo del 1972 fra Bobby Fischer e Boris Spassky, che ha fatto la storia con le rispettive nazioni dietro, ed è una storia molto interessante. Quindi andremo alla ricerca di Bobby Fischer, come c'è un famoso libro e molti libri. E quindi qual è la raccomandazione in questo periodo? Chi non l'avesse fatto dovrebbe guardare La Regina degli Scacchi, che è una serie TV, di cui ne parliamo, bellissima da tutti confermo, i punti di vista. Confermo, bellissima vista tutta, anch'io, è molto molto consigliata. In cui Kasparov ha fatto il da consulente, quindi anche abbastanza realistica dal punto di vista scacchistico vero e proprio. Quindi avete un mese, mi raccomando. Avete un mese, sì, esatto. E Roberto, sì, Davide, sei tornato? Sì. Si è staccato il microfono. Apposta. Compratevi i Mac, mi raccomando, è importante. No, non ci tenete il Mac, è proprio che sono attaccato col filo. Io c'ho un lavalier, c'entra che sono Mac. Girato, si c'entra vede un Mac. Po' di scatto. C'entra il Mac, dai, non dire che... Comunque... Adesso un Hackintosh, non è neanche un Mac. Chiudiamo dicendo che c'è una recensione su iTunes, addirittura 5 stelle, di tale Root Sector, che ci scrive: ottimi spunti, grazie. Sono ragazzi. Io comunque ma qualcuno ha pagato, allora, no? Che cazzo, sono io. Ma non lo dire che sei tu, scusa, che cazzo. Allora io pensavo avessimo pagato qualcuno, ma per io sono onesto, io sono sincero, ho capito, metti una recensione poi dici che sei tu, scusa. Allora, non sono io, okay. È Barbie. È Barbie. Barbie. Infatti dice: chi mi dice c'ha le tette? Scusa. Ma non ce le ha più perché gliele hai proprio mangiate. Vabbè, ragazzi. Allora, pur ridendo, torniamo allo oscilloscopio. Esatto, pur ridendo, ragazzi. Questa è una puntata che riascoltate, ve la riflettete su quello che è stato, insomma, Chernobyl anche per noi, per quello che è stato anche per l'umanità e per quello che il nucleare, come forma di deterrenza, diciamo, del pericolo, in realtà poi alla fine ha rappresentato. Io sostengo sempre, mi vanto di pensare questa cosa molto intelligente, ma che poi negli anni ho pensato che fosse una cazzata. Era carina quando la dicevo e c'avevo 18 anni, mi sembravo intelligente, no? Quando dicevo che in realtà l'era nucleare è finita con Hiroshima e Nagasaki, e questo poi perché abbiamo visto quanto è potenzialmente terrificante, no? L'utilizzo di determinate cose in ovviamente in applicazioni belliche, tra l'altro, quando in generale, cioè le applicazioni belliche di per sé, insomma, sono sempre qualcosa di poco delicato verso l'umanità, no? Diciamo così. Però al di là di questo, ognuno poi conserverà il proprio pensiero su questa situazione. È comunque stato un momento fondamentale, probabilmente anche per la storia europea, anche per la storia mondiale e forse anche per la storia dell'Unione Sovietica in sé, che era già nella fase oramai più che declinante della sua settantennale storia, insomma, diciamo così. Quindi sono passaggi epocali che di per sé uno pensa: Chernobyl è stato importante per tantissime cose, purtroppo in maniera drammatica, come diceva Carlo, insomma, tutti quelli che scavavano, io mi ricordo queste immagini, questi ragazzi c'erano avuto poco più che 20 anni fondamentalmente, che scavavano per 10 minuti a rotta di collo molto velocemente e poi uscivano e prendevano un altro turno. Quindi voi immaginate quante persone in quella colossale operazione che tutto sommato poi ci ha salvato tutti, perché insomma poi alla fine ci hanno messo una pezza, no? Tutto sommato, pensate quante persone hanno perso la vita direttamente e indirettamente con questa storia, e questo ci deve sempre far riflettere. Detto questo, io saluto Davide Gatti. Saluto tutti anch'io e approfitto per ricordare che martedì esce l'ultimo episodio dell'ottava stagione di Survival Hacking, che poi andrà momentaneamente un po' in vacanza. Forse non lo sapeva nessuno, ma ora lo sapevatelo. E va un po' in vacanza perché è un periodo un po' incasinato tra YouTube, lavoro, famiglia, e così respiro un attimo, però poi si ritorna, sappiate che ritornerò. Se volete tranquillamente Survival Hacking e ve lo beccate sulla web radio, poi vi dirò anche i giorni, intanto ci abbiamo tipo centinaia e centinaia di puntate da trasmettere, potremmo trasmetterlo anche tutti i giorni, quindi c'è proprio... nessuno si accorgerebbe del fatto che è una cosa preregistrata. Ringrazio e saluto ovviamente Carlo Sant'Agostino, che ha fatto tanti lavori sul sito di Archeologia Informatica. Siamo usciti appunto con il podcast, siamo usciti con i video, adesso fra poco ne uscirà anche un altro, insomma tanti tanti lavori. E domani sera ricordiamo esatto domani sera ricordiamo che saremo ci sarà una nuova puntata di Archeologia Videoludica che torna, e torna con una puntata speciale dedicata alla storia di Ultima, della Origin, Lord British, tutto quello che ne è collegato, con un super ospite speciale che è l'autore del libro dedicato alla storia di Ultima, che è Trude Moongate. Yes, che sono, contatto, che sono, contatto. Sono tre libri in realtà, di cui due ne sono usciti e uno dovrebbe ancora uscire. No, sono, sono due libri e basta. Due libri, fine, e basta. Perfetto, quindi, due libri is meglio che one. E invitatelo a scrivere il terzo. Invitatelo di fare anche il terzo. Ci sono piaciuti gli altri due. Lo scrivo io. Lo scrivo dirà io. Lui domani. C'è, okay. C'ho tante cose da dire su Ultima. Io, voi lo sapete che facevo io su Ultima. Meglio non saperlo. Meglio non saperlo. Grazie e saluto Roberto Domaiolo. Grazie a tutti e a chi ci segue. Così, con tanto amore. Allora, ragazzi, io vi lascio con il brano della settimana e ve lo presento un secondo. Il brano della settimana di una ragazza di 17 anni di Pesaro, che con questa canzone molto musica leggera italiana, però comunque ben cantata, ben strutturata, chiaramente in musica le sensazioni degli adolescenti di questo periodo, che sono, insomma, vivono la peggiore adolescenza della loro vita proprio a causa di quello che stiamo vivendo, del Covid. Tante volte noi che siamo più adulti non ci pensiamo, no? Perché noi comunque la nostra adolescenza l'abbiamo vissuta, indipendentemente da come l'abbiamo vissuta come abbiamo scelto di viverla. E viverla col distanziamento, senza abbracci, senza contatti, deve essere molto molto particolare. Quindi, insomma, mi fa veramente piacere accogliere questo brano in Runtime Radio, che è andato per tutta la settimana e che domani ovviamente domani e dopodomani avrà, insomma, il suo epilogo, perché poi, come giustamente, tutte le cose durano una settimana. Detto questo, vi ringrazio a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. Preparate i pulmini, preparate i Volkswagen, i Westfalia, che si va in vacanza. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Bon. Eccoci qua. Sono Chiara Vigili, ho 17 anni e amo la musica. Il 27 marzo 2021 è uscito il mio primo singolo, Quello che non c'è. Racconta di rapporti di amicizia tra gli adolescenti in questo periodo particolare. Delusioni, incomprensioni, difficoltà nel chiarirsi faccia a faccia, mancanza di abbracci e di sorrisi condivisi. Avevo bisogno di esprimermi in qualche modo e sono stata molto contenta di farlo con la musica. Il mio brano è disponibile sui digital store Spotify, YouTube, Amazon, Amazon Music, Apple Music, Deezer e iTunes. Buon ascolto a tutti. Era così già dal primo momento, oppure da ieri è cambiato tutto. Le scelte non mentono mai, non mentono mai. Ora però nessun turbamento, risponderò restando in silenzio, che gli occhi non mentono mai, non mentono mai. Non posso aspettare quello che non c'è, è lo stesso errore che troppe volte mi ha fatto cadere. Sorrisi più veri me li chiedevi anche tu, tutti gli abbracci sinceri te li ricordi più, te li ricordi più. Ora potrei cercare una scusa, ma quello che trovo è solo paura a spiegare amare non basterà mai, non basterà mai. Non posso cambiare quello che già c'è, è lo stesso errore, ma questa volta non voglio cadere. Facile accettare, non sarà mai facile ricominciare. Tutti i sorrisi più veri me li chiedevi anche tu, tutti gli abbracci sinceri te lo ricordi più, te lo ricordi più. Tutti quei sogni leggeri me lo dicevi anche tu, e credici in quello che vedi, te lo ricordi più, te lo ricordi più. Te lo Un saluto speciale alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Runtime Radio.